música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. È cambiato qualcosa nelle vostre case? Se non è cambiato nulla, ahimè, vuol dire che per voi il tempo passa invano, le stagioni si alternano senza nessun senso. Questi sono i giorni, erano i giorni, o perlomeno attingendo nei lontani e mesti ricordi della mia fanciullezza, in cui si facevano le pulizie di Pasqua. Noi le chiamavamo pulizie di Pasqua, poi vedo che passando il tempo e aumentando il sentore, giustamente, e se Dio vuole, di senso laico dell'esistenza, le chiamano oggi pulizie di primavera. In realtà nella vita metropolitana ben poco senso ha, perché le case sono sempre uguali, qualunque stagione dell'anno, sia inverno, sia estate, sia primavera, siano frequentate, siano deserte, siano desolate. Ma in realtà le nostre case, almeno come le ricordavo, in questa stagione avevano una straordinaria palingenesi, cioè rinascevano, c'era qualcosa di nuovo. Le donne cominciavano a pulirle da una settimana prima e facevano dei lavori, quelli che erano i grandi lavori che non sempre si facevano durante l'anno, il rivoltare dei materassi, il buttare via e vuotare i magazzini, il fare pulizia radicale anche sopra gli armadi, sotto nei luoghi più nei recessi più nascosti, insomma la casa si cambiava da capo a piedi e soprattutto si buttano via tante cose. Oggi se io mi aggiro spaventato negli armadi di casa mia, mi rendo conto che è ormai imminente, vicino, il grande cambio, la muta degli armadi. Tirare fuori dal cellophane gli oggetti che stanno lì e giacciono pietrificati dall'ultimo passaggio in tintoria e cominciare a rifare i grandi pacchi e riportare in tintoria ormai i panni invernali che ci pesano addosso come se fossero dei cilizi, come se fossero delle camicie arroventate di mitologica memoria. Ma in realtà questo è un momento meraviglioso, un momento fatale, per cui assieme agli oggetti, assieme agli abiti smessi, insieme con le giacchettine di tweed che anno dopo anno si tirano fuori, si rimettono dentro l'armadio, rimangono incellofanate, che non mettiamo più almeno da 3-4 anni, non abbiamo il coraggio di buttare, beh, assieme alle pulizie è il momento in cui si vuoti, si butti via, ci si liberi, ci si alleggerisca in un insieme di fardelli, sia essi concreti, sia essi di tipo personale, intimo, spirituale, mentale e psicologico. Questa mattina vorrei farvi riflettere sul concetto delle pulizie di primavera. Ammesso che non le facciate più a casa vostra, per ormai le case sono soltanto dei loculi in cui si entra e si esce, si passano alcuni attimi, alcune ore di riposo, di catalessi, di rifocillamento per uscire il giorno dopo con il proprio fardello personale, con il proprio bagaglio individuale. Ognuno di noi si porta dietro tutto ciò che serve, necessario per compiere la giornata. E quando rientra a casa, una veloce muta, un veloce cambio, uno scambio formalità affettive, poi si va a dormire, poi si riesce. Ma ammettiamo che le case siano uno specchio della nostra esistenza, siano una sorta di metafora della nostra condizione. Noi guardiamo riflessi noi stessi nelle nostre case. Ecco, di cosa ci vorremmo liberare? Cosa vorremmo pulire? Cosa vorremmo buttare dalla finestra in maniera indissolubile? Di cosa, se potessimo, vorremmo disfarci? Nella stessa maniera in cui ci disfiamo di quelle scarpe che ormai è ora che buttiamo via, di quei pantaloni che ormai non ha più senso che noi teniamo, di quegli oggetti, di quei libri, di quelle carte, di quei ricordi che sono nient'altro che un appesantimento della nostra anima. 800 24, quali sono le vostre pulizie di primavera? Ha già fatto il cambio di stagione? No, non sono pronta, guardi, non ci voglio pensare. Proprio dormo ancora. Cambio di stagione? Ci stavo provando, ma ho deciso di rinunciare, come potete notare. Butta il marito e la moglie, ma non butta la roba perché ritorna sempre di moda. Gli armadi. Oddio. Da un'indagine condotta da Edged Value per ebay.it risulta infatti che valgono 5 miliardi di euro i vestiti abbandonati negli armadi degli italiani e che il 20% del guardaroba si potrebbe rivendere, ma la gente non butta niente. Perché possono essere utili, si sa mai. Le maestrine alla penna rossa già mi hanno bacchettato, mi sono dimenticato di un 24 del numero verde, ma lo diciamo da anni, penso che lo sapranno tutti, che 800240024, ma erano già le mie pulizie di primavera, mi ero liberato di un 24, di un orpello inutile, perché ripetere e reiterare questo numero quando è già nel nostro brand, quando già tutti lo sanno, che ci sono ben due 24 intercalati da mistici 0 e un 8 all'inizio, che guarda vigile questa sequela di numeri che vi farà accedere al piacere. All'estrema libidine di poter parlare in trasmissione. Avete presente le grandi pulizie di primavera? Mia madre le fa come l'estrazione del lotto, ogni due giorni. In Piemonte, quando arriva la primavera, fanno il cambio dell'armadio. Prendono la roba invernale e la mettono sotto vuoto. Mia madre, quando arriva primavera, la roba non la mette sotto vuoto. Per farla durare di più, la mette sotto olio. E il cambio dei vestiti era così: a primavera i primi caldi ci toglieva la maglia della lana e ci lasciava in canottiera per tutta l'estate. Già cominciamo a individuare due letture, due Weltanschauung, due visioni della vita che considerano le pulizie di primavera come una grande metafora dell'esistenza. Questo è Franco Neri che contrappone e collaziona i due concetti di pulizie di primavera fra una mamma calabrese e una mamma piemontese. Vedete, nella facezza, nello scherzo, nello sketch in realtà si vedono due atteggiamenti diversi nei confronti di quelli che possiamo sì considerare gli oggetti inutili, gli oggetti superflui, gli oggetti che non servono più, perché questa è la stagione dello scoprirsi, questa è la stagione del denudarsi. Qui non ci serve più qualcosa che ci nasconda, che ci copra, che ci riservi e ci preservi. Ci serve qualcosa, anzi, che ci esalti, che ci faccia sentire liberi. Ci serve un invito alla leggerezza, un invito alla fuga, un invito alla trasgressione, quando tutto l'inverno in realtà è un grande baluardo, una grande impiombatura della nostra esistenza e la nostra casa. Beh, la mamma calabrese mette gli abiti sott'olio, li conserva come se fossero, non so, delle quaglie, come se fossero dei pezzi di capra per farci la pasta asciutta con il sugo di capra. La mamma piemontese, in realtà, che guarda, ma intendendo come due antitetiche condizioni dell'esistenza, la visione del nord e la visione del meridione di questa operazione della conservazione di ciò che non serve più nella stagione della liberazione, in cui vorremmo cercare dissoluzione, non conservazione, non vorremmo nulla che ci mantenga, che ci preservi, che ci tenga legati in maniera indissolubile le nostre certezze, vorremmo qualcosa che ci porti alla dissoluzione. Beh, la mamma invece con una visione tecnocrate, nordica e avveniristica della realtà, seguendo probabilmente quelle meravigliose televendite delle buste ad aspirazione, mette i pacchi sotto vuoto. Avete mai provato a usare quel sistema? Io talvolta, in un momento di scellerato scapolaggio, tentai di prendere i sacchetti che si vuotano con l'aspirapolvere. Beh, mentre nella reclama in televisione vengono dei perfetti parallelepipedi in cui tutto può essere praticamente perfettamente ordinato nell'armadio, nella realtà vengono degli oggetti informi, vengono dei cadaveri carbonizzati, vengono fuori della sorta di orribili fantasmi del nostro inconscio che non puoi mettere da nessuna parte, perché poi sì, sono strizzati, sono senza aria, ma occupano spazio indescrivibile rispetto a quello che occuperebbero normalmente ripiegati. Rosa Maria, buongiorno. Rosa Maria? Sì? Ecco, la sto ascoltando. Ah, buongiorno dottor Nicoletti, sono Rosa Maria. La sento molto mesta, cos'è? Affaticata dalle pulizie di primavera? No, sono affaticata, sono in coda sulla tangenziale di Milano. Ah, sta guidando. E forse è questo. È dotata di auricolari o viva voce? Sì, tutto a posto. Bene, allora, qual è il problema in questo periodo? Io non lo vedo come un problema, perché io sono terrorizzata dalle pulizie di primavera e succede che tutto l'anno praticamente mi dedico alle pulizie di primavera. Ah, quindi lei è una maniaca della pulizia? No, direi proprio di no, però poco alla, proprio perché ho paura, ho il terrore di essere sommersa da queste pulizie, essere intrappolata, le faccio un po' alla volta, piano piano. Quindi lei dice una casa talmente pulita che non occorre la faccia di primavera? No, le faccio comunque. Allora, perché... Rosa Maria, adesso qui la inchiodo nella sua transumanza. Siccome io sto usando in senso metaforico e a volte anche scurrile il senso di pulizia di primavera, significa, trasposto nella sua vita privata, che lei in realtà si dedica a questa operazione di alleggerimento tutto l'anno, ecco, quindi non ha bisogno di sentirsi leggera. Perfetto, era proprio questo. Lei mi ha veramente tirato fuori le parole. L'ho praticamente messa a nudo. Cerco di alleggerire la mia anima piano piano, però c'è un ma però. Soltanto l'anima, Rosa Maria, perché noi diamo sempre valore all'alleggerimento dell'anima come se fosse l'unica nostra componente. No. È sicuramente la più nobile, ma anche l'alleggerimento dei nostri sensi, della nostra carne, non sarebbe spiacevole. Certamente, però mi turba la cosa che i miei armadi sono comunque sempre pieni. E quindi metaforicamente, se la turba la cosa che i suoi armadi sono sempre pieni, significa? C'è sempre molto da lavorare. Ma questo lavoro non è spiacevole? Qualche volta sì. Va bene. Perché non ci si vuole staccare dai ricordi, dalla nostra vita passata. Ma in questo momento, se io potessi avere una bacchetta magica e riuscissi magicamente a far dissolvere il ricordo più pesante nei suoi armadi, collocati sia a casa sua sia nella sua interiorità, c'è qualcosa che vorrebbe che io facessi sparire? La carta. Ecco, una cosa che mi viene, la prima cosa che mi viene in mente. E di oggetti animati? No, oggetti animati nessuno. Quindi una persona di cui si vorrebbe liberare? Presenze? Attualmente no, forse l'anno scorso quando lavoravo ancora, perché sono una neopensionata, ecco. Allora forse avrebbe. Quindi avrebbe voluto liberarsi di del pensiero di affaticamenti umani di cui si è grazie a Dio liberata. Ecco perché allora non ha bisogno di fare le pulizie di primavera. Ecco. Grazie, buon viaggio, Massimo. Sì, eccomi qua. Pensiamo alle cose di cui lei è costretto a liberarsi. Ma io devo dire la verità, io sono 10 anni che sono in affitto in una casa all'Aquila, arrivato il terremoto precisamente quasi un anno fa. Quindi ha fatto pulizia di tutto il terremoto? Non riuscivo a liberarmi di alcuni mobili orrendi che avevo dentro casa, vestiti, scarpe, e dicevo sempre devo buttare, non riuscivo mai a buttare questa roba. Terremoto, arriva... Protezione civile, tutto quanto, poi arriva la ditta, dice, qui guarda dobbiamo sgombrare, io ho detto no. Ma in che categoria è la casa sua? La casa è una B. È una B, quindi sono state già rimesse a posto forse? No, siamo in procinto di finire. Però... Lei è fortunato, io una E, ho ancora i calcinacci sul letto esattamente da un anno, quindi, e aspetta. No, la fortuna è che la ditta, diciamo, avendo questi operai magari... che anche loro si trovano in situazioni abitative magari un pochino precarie, mi chiedevano ma questa stufa posso prenderla, questo muove, prendete tutto, portate via tutto. Guarda, lei mi suggerisce un ricordo, io andai all'Aquila proprio a pochi giorni dal terremoto e vidi in alcune case sventrate, nella tristezza, nella mestizia, nel dolore, nell'annichilimento di quello che si vedeva, vedevo però come uno spaccato sagittale di queste case e vedevo gli oggetti inutili che noi stipiamo in casa. Vedo case probabilmente di anziani sventrate, di cui si vedevano le camere da letto aperte con tutti i ritratti di Padre Pio appesi sopra il letto. Vedevo gli armadi che praticamente erano esposti, caduta la facciata, e chiunque passava vedeva tutto quello che era nascosto in questi armadi. E vedevo i mucchi di lenzuola, di scatole ancora di cartone, di quelle che regalano per i corredi di matrimonio. Vedevo l'ammassarsi di coperte, di oggetti, e capivo quanto le case sono piene di oggetti inutili. È triste capirlo con il terremoto, ma le case straboccano di inutilità. Io sono riuscito veramente in un colpo a caricare tutto sopra il camion di questa ditta che ho ringraziato proprio a cuore aperto, e mi dicevano ma questo ti serve? No, non mi serve niente, via questo, via, e ho provato un vero senso di liberazione, ho potuto prendere, colorare, dare nuova, veramente nuova vita. Sì, ma capisco, carità, la leggerezza tragedia, di togliersi di torno gli oggetti. Sì, la tragedia è indiscutibile sia stata una tragedia. Poi sono momenti in cui uno può fare anche riflessioni secondarie. Ne faccio un'altra di riflessioni. Mai come in questo momento ho visto persone intente nell'operazione sistematica, organizzata, del recupero nei cassonetti della spazzatura. Adesso sotto casa mia ne passano frotte tutti i giorni. Penso che siano dei romeni che sono accampati dalle parti di Piazzale Clodio, non so bene. Comunque sistematico. Comunque posso dire che a 5 operai ho ridato possibilità di arredo di casa. Quindi mi dicevano: ma questo tavolino è nuovo, prendilo. Quindi pensi che a casa sua ci hanno ammassato i mobili che avrebbero arredato 5 case? Sì, però non ce la facevo più, li volevo dar via, non sapevo neanche, cioè non avevo giorno per giorno l'idea di dire li devo prendere, li devo portare via. Invece questa cosa mi ha totalmente liberato, anche forse psicologicamente, da tutto questo questa pesantezza di ricordo. Lei di quel ha centrato perfettamente quindi quello che è il tema. 800 24 00 24. Capite, immaginate, pensate quanti oggetti inutili, quante occasioni di spazio libero, di spazio recuperato, di leggerezza, di freschezza, di profumi, di muffa buttata alla finestra potremmo procurarci facendo le pulizie di primavera, ma non soltanto dentro casa nostra. Giampaolo mi fa: però mia mamma, guarda, per la casa usa almeno 100 tipi di prodotto. Ci faccio: Giampaolo, mia madre con un prodotto solo fa tutto. Era un mattone così grosso, bianco, con scritto Sapone di Marsiglia. Che quando ci faceva il bagno ci sfregava così forte che alla fine parlavamo pure francese. Solo per i mobili usava olio d'oliva. Ne metteva così tanto che l'insalata la contevamo direttamente sul tavolo. Giampaolo mi fa: però mia mamma, sai, per pulire le cose più difficili usa il 100 gradi, così uccide i microbi, gli acari scoppiano e posso dormire tranquillo. Ci ho detto: io dormo solo se ci sono gli acari. Anzi, ne abbraccio uno e mi canta pure la nananan. Leggo qualche commento su Facebook, perché chi sta davanti alla tastiera di un computer non è che senta meno il problema della mancata leggerezza nel proprio ambiente, della voglia di leggerezza del proprio stato d'animo e della necessità di accompagnare in queste giornate assolate il lancio felice e festoso nei cassonetti della spazzatura di tutto ciò che ci appesantisca. Allora Piera dice: sulla presenza di oggetti inutili sono assolutamente d'accordo, le pulizie di primavera le faccio facilmente, pretendo a non accumulare. Solo la carta è la mia maledizione, a casa e al lavoro. Giusy: il mio aspirapolvere è arrivato al momento giusto, ho iniziato dalla camera, sono arrivato in cucina, ho illuminato tutto quasi sui piani esistenti, sarà la primavera. Elena: revisionismo dell'armadio, nessuno deve intromettersi nelle pulizie primaverili e cambio di stagione. Io sono una che butta via tutto, cresciuta tra le nonne che conservavano anche il grembiule delle scuole elementari. Tutti fuori e niente strilli. Buttate via, regalare, tagliare. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Beh, allora prima di tutto volevo ringraziarla per la trasmissione che mi piace molto. Poi diciamo che a casa mia le pulizie di primavera si palesano quando mia mamma comincia a pulire il garage. So che quello è il momento. Si comincia dal garage, siccome. Esatto, sì, perché non lo pulisce per il resto dell'anno, però ci mette sotto anche a noi, quindi io e mio papà, diciamo. Lei ha 22 anni, vedo dalla scheda. Bene. Esatto, esatto. Dopo, sì, effettivamente tentiamo di gettare via delle cose, perché a casa nostra tentiamo sempre di trattenere in casa, però la maggior parte delle volte qualche completo, qualche maglietta, qualche cosa da vestire, qualche oggetto che non usiamo più, riusciamo a cestinarlo. Il problema della faccenda è mia nonna, perché essendo cresciuta durante la Seconda Guerra Mondiale va a riprendere queste cose. Ah, va a recuperarle nel cassonetto come fosse un barbone e se le riporta a casa. Non come se fosse un barbone, ma perché pensa che dobbiamo utilizzarle ancora, quindi ce le ritroviamo, rispuntano nei cassetti, diciamo che questo. Guardi, e questo forse è uno dei sintomi della mia umarellaggine che sta arrivando. A volte mi è capitato di salvare, proprio come se fosse un condannato a morte sul patibolo, qualcosa che stava uscendo verso la parrocchia, verso non so quale associazione benefica la casa mia. E ho ridato un altro anno di sopravvivenza nella stampella dell'armadio, magari una giacca che mi era molto cara, a un soprabito che aveva intrisa una storia che non volevo dimenticare. Ma questi sono segni di vecchiaia, sono segni di incaparbimento a mantenere e conservare. Se questa mattina posso dare un consiglio, liberatevi di tutto, trasformate le vostre case in una sorta di casa giapponese, in un giardino zen in cui c'è nient'altro che voi e lo spazio per i vostri pensieri. Laura. Oh, pronto, buona giornata a tutti. Io sto facendo esattamente quello che state dicendo, ho una scopa in mano, sono in campagna e sto pulendo, buttando via tutto ciò di cui non ho più memoria, non mi serve. Faccia qualche esempio, faccia un'analisi attenta della sua pattumiera e ci racconti. Ho aperto un cassetto qua in questo momento ho trovato un troiaio che, di plastica che non so per quale motivo stesse qua dentro, aggrovigliato e tutto, e mi sono domandata... Sapesse lei quanti troiai c'ho io da cui vorrei liberarmi? No, sì, però ecco, non ho memoria di questo, per cui non so quando l'ho preso, che cosa ho fatto. E sto ripulendo tutto in modo che l'occhio si appoggi un qualche cosa di largo. Non voglio avere intoppi quando io entro in una parte, quando sono in giardino, le piante che devono essere tolte tutte, quelle brutte, quelle che non stanno, e mi sento bene e mi sto divertendo in modo assoluto. Ma lei non deve fare i conti con nessuno, nel senso, nessuno poi viene a dire perché hai buttato via questa cosa mia a cui tenevo. Potrebbero, ma siccome mi sono scelta da pochi anni proprio di avere un grado di libertà assoluto, non ho nessuno di fronte, non ho un condominio, vivo in campagna per scelta, per cui i miei figli e mio marito, loro si sono sempre fatti gestire, per cui quello che trovano, la bottiglietta presa, guardi, quando siamo basta. Le posso dire una cosa e confesserò qui, quasi confesserò un'infamia: se si accorgesse mai qualcuno che vive con me delle cose che io ho buttato via negli anni, di cui non si è mai accorta, e quindi evidentemente non erano per lei fondamentali, probabilmente si creerebbero dei problemi, nelle fratture insanabili. Io, in momenti di libertà in cui ero perfettamente padrone per pochi giorni di casa mia, ho buttato via scatoloni di roba. E la cosa meravigliosa è che nessuno se n'è mai accorto. Esatto, quintali di borsette, tonnellate di scarpe, giocattoli, libri. Giocattoli vecchi. Non roba mia, è roba altrui, la roba mia. Uso, certo. Poi nessuno se ne è mai accorto. No, io mantengo soltanto i 2 metri cubi di Lego, perché forse un domani, se avrò la grazia di avere dei nipoti, gli insegnerò a giocarci. Quella, sì, ma non ci giocano più. Posso dire una cosa? Io anch'io ho conservato il mio Lego per i miei figli e penso che adesso butterò via il Lego. Mi ha dato un'idea, perché non gliene importa più nulla. Ci salutiamo tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Continui tranquillamente con la sua ramazza a fare il suo lavoro di pulizia. Email melog@radio24.it. Melog 2.0. Avevamo una lavatrice che sembrava telecomandata. Quando centrifugava camminava da sola e mia madre attaccata a lei. Poi lei, per approfittare, ne metteva sotto le ciabatte, le pattine, e lucidava pure il pavimento. Solo che il problema cos'era? Che il lavaggio lo faceva a Torino e il risciacquo lo faceva a Catanzaro. Usavamo dei detersivi così aggressivi che quando guardavi il bucato, era bucato veramente. Gli avevo regalato pure il folletto. Mi fa, un folletto pulisce bene. Però se sto nano verde ogni tanto non lo prendo a calci in culo, non fa niente a casa. Mia madre aveva paura solo di 2 cose, del gas e del forno a microonde. Difatti, prima di andare a dormire mi diceva: Franco, oh Franco, spegni il gas e chiudo lo sportello del forno a microonde, perché saranno pure piccole ste onde, ma se si allaga la casa, mi incazzo! Franco Neri, abbiamo sentito le letture, le interpretazioni, il rapporto tra l'arcaico e il tecnologico. Le pulizie di primavera, che non sono più basate come era nei tempi andati, soltanto con un olio per mobili, il cui odore sentiva ancora per giorni e giorni, dà quell'impressione pulito, e un detersivo per pavimenti, tutto fare, comunque con tanto olio di gomito, otteneva il risultato ugualmente. 800 24 00 24, stiamo analizzando il problema delle pulizie di primavera. Vedo molto centrato negli aspetti materiali, negli aspetti concreti, un po' meno, un po' più reticenti sugli aspetti che invece riguarderebbero la pulizia affettiva, la pulizia relazionale, la pulizia dei pensieri, la pulizia dei vincoli parentali, la pulizia primaverile di tutto ciò che ci appesantisce l'anima. Riusciamo ad essere leggeri, riusciamo perlomeno a immaginare, a pensare, ad illuderci o allucinare qualche settimana di leggerezza che poi sarà immediatamente squagliata dalla precoce calura estiva, non ce la lasciamo sfuggire. Tommaso. Buonasera, buongiorno, altro che buonasera. Io vivo nella costante nella lotta costante di far entrare cose in casa e cercare di fare spazio per appunto farle entrare. Sentivo che voleva buttare via il Lego, io ho un figlio di 2 anni e mezzo e ho la cantina stivata dei miei giochi, quindi... Il Lego se lo mangia, 2 anni e mezzo ancora è troppo presto, è pericoloso. Ma lo so, ma cioè l'ho iniziato con i cubi più grossi, infatti il Lego è stivato, il mio Lego è stivato in cantina, e al momento giusto uscirà per fare spazio. Ma io devo al Lego fra i momenti più teneri della mia fanciullezza, quindi pensi quanto posso essere attaccato. Mi sono reso conto che oggi non so perché non appassiona più, ma forse è un problema personale che riguarda la mia famiglia. Non c'è più la passione di una volta c'era solo il Lego dentro il fustino ricoperto con la carta della mamma, il fustino del detersivo della lavatrice, esatto, e non esatto. Si è l'ora di tornare a casa dopo scuola, ci si mette lì con Lego e passano le ore, ma i tempi passano, è da Umarell questo mio ricordo. Nel frattempo Danilo Maso Masotti da Bologna mi manda un filmato su Facebook e mi mostra cosa fanno gli Umarell per le pulizie di Pasqua. Siccome noi tutti buttiamo roba nei cassonetti, gli Umarell come iene si buttano intorno al cassonetto e vedono la roba che uno guardi, ha buttato via questa abat-jour, ha buttato via questo questa bellissima consolina porta oggetti, ha buttato via questa spazzola per le scarpe che ancora è buona, chissà quanto potrebbe lucidare. Angela, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io volevo dire che i miei figli mi definiscono una reliquiaria, nel senso che non butto via quasi nulla, me la porto dietro nel tempo, ma addirittura ho una stanza in cui manca anche la luce, c'è uno stand con tantissimi vestiti. Beh, è un sepolcro, non è una stanza. Sì, è un sepolcro. E sopra questo stand addirittura c'è un lenzuolo che copre tutti questi abiti che appartenevano alla mia vita di circa 20-25 anni fa. E lei che fa? Si chiude in questa sorta di stanza? Sì, ogni tanto vado in questa stanza, scopro lo stand, li guardo e dico, no, adesso questo lo butto, ma no, è una giacca Chanel, ma forse, no, è meglio che la tenga. Non mi parli delle giacche Chanel, guardi, ho un armadio pieno di giacche Chanel, appunto, che nessuno mette più. E pensi che queste sono anche delle giacche con delle spalle da marziano che ormai non vanno più, eppure non riesco a buttarle via. Forse perché, appunto, come diceva lei, appartengono ad un periodo della mia vita. No, non so adesso, le giacche Chanel che stanno a casa mia sono di una vecchia zia morta, nessuno ha coraggio di buttare via, come se fossero animate dall'anima inquieta. Sì, ma io ne ho una o due Chanel, il resto non è Chanel. Dicevo tanto per dire, magari ci sono delle altre cose assolutamente anonime, ma che appartengono a un periodo della mia vita a cui penso sempre con molta affettività, e cioè a quando, appunto, ero sposata ed ero felice, e forse per questo che magari non riesco. Quindi lei si chiude nell'armadio dei fantasmi, nella stanza dei fantasmi, e riassapora, sente anche l'odore di questi oggetti, di questi vestiti. Sento tutto. Sì, ma non provi a sentire tutto, visto che primavera, anche in maniera più epidermica e meno legata agli orpelli del passato, non potrebbe essere un suggerimento, non lo so. Se lei facesse un gran falò di questa stanza e la trasformasse, non so, in un'alcova in cui potrebbe ricevere qualcuno, non sarebbe meglio? Ma è difficile, difficilissimo, non ci riesco, non lo so. Beh, certo, finché continua a star lì a fare la corte ai cadaveri, è chiaro, è normale. La mia vita sono andata avanti, perché poi adesso ho un nuovo compagno, ho una vita nuova. Ma del nuovo compagno sa di questi suoi ritiri nel confessionale dei vestiti vecchi? Forse lo sa e non me lo dice, non lo so. Beh, fra di voi non vi parlate di questo? No, assolutamente no. Non voglio entrare, sono fatti vostri, nel senso, ma avere una persona così legata, tanto che ha il suo reliquiario personale, sta lì e continua a guardare i vestiti. Ma c'è anche l'abito da sposa, spero di no. No, quello no. Quello no, perché poi quando mi sono separata è la prima cosa che ho dato via. E allora perché questi li ha tenuti? Perché... Questi li ho tenuti perché in quel periodo lì mi piacevo molto. Mi piaceva tutto di quello che avevo, compresa me stessa. Ma oggi non trova abiti adeguati a renderla felice? No, non riesco più ad avere uno stile, tanto è vero che faccio le mie spese insieme a mia figlia e mi lascio consigliare molto. Io, guardi, è quasi che come se avessi meno fiducia in me e in quello che sono. Perché secondo me lei non ha nessuno da attizzare in questo momento. Scusi la crudezza, ma... Può essere. È proprio questo, perché uno si sente bello quando si sente gratificato dalle attenzioni altrui. Se una delle persone indifferenti intorno entra nel ruolo maledetto di madre consigliata dalla figlia, le darà degli abitucci sempre più grigi, delle scarpettine con il tacco sempre più comodo, delle calze sempre più elastiche e contenitive, delle mutande sempre più ascellari, e lei lentamente si avvierà ad essere uno di quei mesti ricordi chiusi in quella stanza. Io le consiglio di fare un bel falò, buttare via tutto, dare una ripulita e prendersi una vacanza. Approfitti di questi giorni, veramente, vedrai che si piacerà di più. Giancarlo. Buongiorno, chiamo da Palermo. Diciamo, io invidio un po' le persone che riescono a fare le pulizie di primavera spazzando e eliminando cose. Io non lo riesco a fare nel modo materiale, ma la cosa che mi pesa di più è che non lo riesco a fare nel piano dei rapporti umani e delle persone. Finalmente ci siamo arrivati. Che vorrei spazzare via e vorrei buttare fuori la signora col cadavere nell'armadio. Ha parlato metaforicamente, lei parli in maniera più esplicita. Quali sono le pulizie che vorrebbe fare? Le pulizie che vorrei fare sono tutti i rapporti anche con donne che non riesco a tagliare, i rapporti anche con di lavoro eccetera. Cioè rapporti plurimi, o dice donne in un senso plurimi, di... sì, anche maiestatis. Però quando tu ti accorgi che una cosa la devi tagliare, dovresti tagliarla, ecco, questo esce, questa incapacità. E perché se ne trova un'altra, così chiodo scaccia chiodo, non è meglio? No, ma io me ne trovo un'altra, però poi il chiodo non scaccia chiodo. È così, e questo è un bel problema, perché poi mi ritrovo come un armadio pieno, no? di cose. Guardi, per paradosso, gli uomini in ascolto potrebbero dire: ah, fortunato questo, ma di che si lamenta? Ma in realtà l'iperproduzione affettiva e relazionale è un peso tale quanto la castità maledetta, anzi superiore. Sembra paradossale, ma immagino, penso, non ne ho esperienza naturalmente. No, sicuramente io, ripeto, non ho esperienza, al contrario della castità, per cui sicuramente è un gran peso dover reggere certi rapporti, perché poi ci sono bugie eccetera, specialmente quando poi dici a te stesso: ma che ti serve, a cosa, dove stai andando? No, perché diciamo mantenere un rapporto sciatto è come continuare a mettere nell'armadio la giacca di cui ormai ci si dovrebbe liberare, e non ci si riesce più a togliere di dosso, perché ormai si pensa che faccia parte di noi. Ci vuole un atto drastico, ci vuole un taglio deciso, ci vuole una recisione senza pietà né per se stessi né per gli altri, se no non si fanno pulizie di primavera. 800 24 00 24, tra un istante, dopo l'informazione del traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog 2.0. Consigli per le pulizie di primavera nel vostro armadio. Regola 1. Chiedete ad un'amica di aiutarvi con le pulizie di primavera nel vostro guardaroba e lo shopping. Un occhio esterno e, speriamo, imparziale, vi aiuterà ad essere più obiettive. Regola 2. Considerate ogni capo dell'armadio e, se non vi va più bene o non l'avete indossato almeno negli ultimi 12 mesi, eliminatelo. Se non riuscite a staccarvene, mettetelo da parte in una scatola o in una valigia. Se non lo indossate per altri 12 mesi, decidetevi ad eliminarlo. Regola 3. Il vostro abbigliamento presente nel vostro armadio dovrebbe corrispondere al vostro stile di vita. Così, per esempio, se siete in pensione ma l'armadio guardaroba è ancora pieno di completi stile business, è il momento di liberarvene e sostituirli con degli abiti che potete indossare tutti i giorni per le vostre attività quotidiane. Regola 4. Nel fare le pulizie di primavera, compilate la lista della spesa, proprio come quando andate al supermercato, in modo da ricordare tutto quello che vi serve ed evitare di compiere acquisti superflui o doppi. Mi ha convinto. Andrò a casa fra un'ora circa e butterò via innanzitutto tutte le giacche taglia 50. Non le metto più da almeno 2 anni, ormai porto la 46. Che ci faccio? Le tengo lì, sono belle, anche quelle sono intrise di ricordi, sono intrise di momenti. Ho foto con quelle giacche, hanno anche belle giacche, ma che ci faccio più? Le regalo, le butto via, le darò alla parrocchia, le darò a chi passa, le regalerò a qualcuno e lo farò felice. Farò senz'altro questa cosa. Poi passerò le scarpe, prenderò la scatola ermetica che sta nel soppalco con le scarpe estive e la butterò butto via tale quale, manco l'apro, non voglio manco vedere che c'è dentro, voglio tutto nuovo. Prenderò quelle invernali e butterò via anche quelle, vuol dire che spreco con tanta gente che soffre. Le metterò in un posto in cui la gente che soffre se le possa prendere ed essere felice. Carlo, buongiorno. Buongiorno a lei. Faccia i suoi propositi anche lei. Più che propositi, cose fatte. Allora, racconti. Ho buttato un fratello, ho buttato due genitori. Io ne ho buttati tre e anche io ho buttato un genitore poco tempo fa. E devo dire che buttare è molto bello, ma è anche un facile inganno, perché se non è nutrito da una rimozione profonda, reale, è semplicemente perdere un'illusione di eternità. Quindi è bello dire buttare, è molto facile. Ma lei dice una cosa sacrosanta, è vero. È senz'altro quello che dice, ma se non si inizia con un atto drastico, con un atto di volontà, volontà virtuale se vogliamo, il processo di rimozione non comincia mai. Poi partirà anche il processo di rimozione. Non ci togliamo mai dalla carne, dall'anima e dal ricordo le persone, ma se non decidiamo a un certo punto che queste persone per noi debbono morire, queste persone non cominceranno mai a sradicarsi, anche se lentamente, dal nostro ricordo. Almeno io la penso così. È molto bello, sono molto grato per queste parole, grazie. Sandra, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io sono una persona ormai divorziata da molti anni, ci ho messo un po' per, come dice lei, fare pulizia di primavera. Mm. Però a un certo punto... Adesso che è tutto pulito, comincia a ricevere, spero. Diciamo che ho trovato una serenità e una parte di egoismo in me molto grande che non sapevo di avere. Il discorso di buttare via l'album di matrimonio, ma ne ho tenuta soltanto una però, perché giustamente... Anche quella parte è parte della mia vita. Il tutto quanto però, butta via o non butta via, la vita è fatta di ricordi. Come si fa a buttare via i ricordi? Ma non è che si buttano via i ricordi. Guardi, lei, usiamo la metafora della memoria digitale di un computer. Semplicemente si organizzano in tanti file, in tante cartelle e si mettono al posto loro. Esistono delle partiture della nostra memoria organica in cui mettiamo dei ricordi, li mettiamo, li organizziamo, li classifichiamo, non sempre dobbiamo chiamarli in superficie, stanno lì, possiamo attingerli. Le rimozioni drastiche, violente, cattive, mosse da rabbia, da astio, da risentimento, sono quelle che, come diceva il signore prima, lasciano sempre degli strascichi molto lunghi. Di solito a una rimozione dovrebbe sempre corrispondere un'acquisizione, per questo l'ha detto pulito casa sua, casa mia. Adesso che è tutta pulita, dico, spero che sia pronta a ricevere qualcuno, avere ospiti. Sì, ricevere ospiti perché ormai vivo bene, ho trovato una mia serenità, perciò la mia casa è sempre aperta agli ospiti, assolutamente, soltanto che non voglio più che si fermino. E forse perché la libertà che ho trovato con me stessa la trovo veramente... forse la cosa più preziosa davvero che ho conosciuto nella vita. Sì, ma non è un a detrimento di chissà quale integrità. Lei accetta passaggi fugaci, spero che siano intensi, non c'è nulla di strano, anzi meglio. E suole rimettere persone in pantofole che si piantano in casa e di cui deve poi togliersi la pesantezza di dosso. Secondo me ha fatto un'ottima scelta. Michele. Oh, finalmente. Buongiorno a tutti. Niente, io, come dicevo alla centralista, questo è il momento giusto per buttare via tutte queste scorie, ma non gli oggetti, perché giustamente gli oggetti sono una metafora un po', ma di pulirci, dopo aver passato la buia stagione invernale, o comunque la tediosa stagione invernale, per chi l'ha vissuta, adesso è il momento della primavera, quindi della rigenerazione, della passione di Cristo, quindi rinnoviamoci. Guardi, questa lo sa qual è la cosa meravigliosa? Che è un'illusione che ci accompagna ogni anno, almeno... È bello che ne siamo consapevoli, non esiste più un ritmo della natura per cui a primavera è la stagione in cui si compivano delle operazioni reali e concrete e questo senso di rinnovamento, di cambiamento seguiva ogni atto della nostra giornata. Le nostre giornate in fondo procedono uguali tutto l'anno perché non è che ci cambiano gli orari, le abitudini, le liturgie a cui siamo sottoposti, ma sentire un attimo, e lo sentiremo per pochi giorni ancora, già ho sentito le previsioni del tempo, sarà una Pasqua terrificante, sotto pioggia e vento, quindi quelli come me che hanno coltivato l'illusione di cambiare aria per Pasqua malediranno e bestemmeranno ogni istante della loro vacanza. Ma detto questo, sentire quest'aria la mattina nell'aria, adesso che è anche cambiato l'orario e che le giornate hanno per un attimo, prima che ci si riabitui al nuovo orario, una sensazione diversa, mattine più fresche più stimolanti e sere prolungate. Guadagnare quest'ora adesso, ancora avere alle 19 di sera ancora un po' di luce e sapere se può prendere un aperitivo, se può bere qualcosa, si può immaginare una serata diversa. Beh, durerà pochi giorni, poi finirà tutto. Approfittiamone perlomeno per fare questo proposito di alleggerirci, poi torneremo pesanti come prima. Non so se lei è d'accordo. Io sono d'accordissimo, sottoscrivo e invito tutti a questo momento di rigenerazione. Io in questo momento mi trovo in mezzo a un prato, mia fortuna, perché sono fermato da un giro in campagna, in mezzo a un prato di margherita. È una visione stupenda, questa è la vita. Sì, soprattutto lo invidio per l'odore di quelle margherite che io ricordo come uno degli odori più cari della primavera. Io da bambino mi mettevo in questi prati e sentivo l'odore della terra, che era un odore che è meraviglioso per chi non l'ha mai sentito com'è in questa stagione, e l'odore di queste margherite che spuntano, che è qualcosa che ti prende veramente i sensi. Sono fiori di campo, fiori che non valgono nulla, appena recisi muoiono subito. Finché ancora sono lì e sono tanti insieme nella massa e nella varietà degli delle colorazioni che hanno questi fiori, anche se sembrano tutti uguali, è qualcosa che assomiglia all'estasi. Fernando. Buongiorno. Pronto? La sto sentendo, che ha fatto lei? Io ho fatto le pulizie di primavera in una maniera molto originale. Mi sono separato di mia moglie 3 giorni fa, avevo in macchina 6 valigie di vestiti, li ho buttati via tutti. Ci ha buttato via moglie e vestiti in un sol colpo. Di un solo colpo, è vero. Che botte. Ho preso 2 piccioni con una fava sola. Pensi, guarda. Un po', e adesso pensi cosa ci può fare. Adesso sono andato nel negozio, ho ricomperato un po' tutto, ho tolto di dosso tutto il resto che avevo, compreso l'intimo e... Ah, quindi lei è proprio rimasto nudo, ha preso, caricato moglie e vestiti, buttato tutto, spogliato e tornato a casa tranquillo, nudo, senza nulla. No, tornato a casa con i vestiti che aveva addosso. Il giorno seguente sono andato in negozio, ho recuperato quello che mi serviva e ho buttato pure quello. Quindi si è purificato totalmente. Sono uscito di casa, totalmente, totalmente. E come si sente leggero adesso? Signore? Come si sente leggero adesso? Molto. Leggero, ma principalmente libero. E adesso cosa farà? La prima cosa che farà, ora rigenerato? La prima cosa che farò una vacanza. Bene. Meraviglioso, grazie Fernando, questo è esattamente l'esempio di quello che cercavo questa mattina, un totale, drastico, felice e senza rimpianti passo avanti, gioia. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Allora, a me piace pensare alla primavera non per le pulizie di Pasqua, ma per i pruriti della primavera, per gli interiori, quelli che non possono essere calmati con creme lenitive, questi pruriti che molti nascondono, ovviamente, però insomma la stagione della primavera è invitata. No, ne parli tranquillamente, peccato che me l'ha detto a pochi minuti, a pochi secondi dalla fine. Infatti, sarebbe volevo dire un'altra cosa, ma mi ha ispirato proprio la sua riflessione su quest'ora in più e su questo momento che dura poco. Allora dico, invece di pensare a togliere via le cose degli armadi, cominciamo a far entrare qualcuno invece di far uscire qualcosa. Perché qualcosa che entra toglie i pruriti, giustamente. È chiaro. Va bene. Volevo dare questo tipo di contributo. Grazie Gioia, lei è il tipo di ascoltatrice che preferisco, che mi corrobora e mi dà speranza a continuare questa trasmissione alla radio. Spero che il suo messaggio sia stato accolto da tutti e soprattutto da alcune persone. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Radio 24. La passione si sente.